O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Artefice, Signore, della terra e del cielo, aurora inestinguibile, giorno senza tramonto. Dona alle stanche membra la gioia del riposo, e nel sonno rimargina le ferite dell'anima. Se le tenebre scendono sulla città degli uomini, non si spenga la fede nel cuore dei credenti. Te la voce proclami, o Dio trino e unico, te canti il nostro cuore e adori il nostro spirito. Amen. Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna, con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Il mio saldo rifugio, la mia difesa è Dio. Confida sempre in Lui, tuo popolo. Davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini. Insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza. Non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio. Tua, Signore, è la grazia. Secondo le sue opere, tu ripagni ogni uomo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa risplendere su di noi il tuo volto. Donaci, o Dio, la tua benedizione. In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del tuo Figlio diletto, e per opera del quale abbiamo la redenzione, dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. È prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo che è la Chiesa. È il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, far pacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo l'universo è creato e tutto e sussiste in Lui. Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma la grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli è cura di voi. Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore. Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore. Nascondici all'ombra delle tue ali. Difendici, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore. Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. In generazione la sua misericordia si tende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili. Lieti e riconoscenti, preghiamo Dio, nostro Padre, che gode nel dispensare i suoi benefici. Colma di grazia e di pace il tuo popolo, Signore. Dio eterno, mille anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo, che punta al mattino e arricchisce la sera. Concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame. E l'acqua viva perché non possa di sete inestinguibile. Fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita. Perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria. Concedi a noi una stagione favorevole. Perché la terra produca un raccolto abbondante. Dona ai defunti la visione del tuo volto. Fa che un giorno possiamo godere con loro la gloria dei beati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi nel cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.